2024 di Enrico Pagliarini. Puntata del 17 aprile 2010. Benvenuti o bentornati a 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda dal 1999, quando ancora la banda larga, la DSL, non esisteva quasi. E quindi vi raccontiamo la tecnologia da più di 10 anni. Il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. E come sempre vi ricordo che il servizio podcast di Radio 24 vi dà la possibilità di scaricare gratuitamente il file della nostra trasmissione, e il file MP3 di 2024 sarà disponibile attraverso il servizio podcast entro 1 ora e mezza dalla fine della trasmissione, quindi potete scaricarlo a partire al massimo dalle 18:30 del sabato. Un altro annuncio riguarda l'attesa applicazione per iPhone di Radio 24. Dal 15 aprile sull'App Store della Apple potete scaricare un'applicazione con la quale è possibile ascoltare Radio 24 in streaming. Visto che l'iPhone non ha la radio FM, come hanno molti altri smartphone, Nokia è stata la prima a inserire la radio FM in molti smartphone, ma oggi anche Samsung, LG e altri produttori mettono la radio FM. In questo caso avete bisogno di questa applicazione laddove non è possibile avere alternative per ascoltarci. Per il podcast rimangono valide le modalità già disponibili oggi. Tra le notizie più importanti della settimana ce n'è una che riguarda l'arrivo di un prodotto della Apple, sempre l'iPad, in Europa. L'Apple ha deciso di rinviare le consegne di un mese, quindi si va alla fine di maggio. La motivazione ufficiale è che l'iPad vende molto negli Stati Uniti e che quindi non ci sono sufficienti pezzi per tutto il mondo, ma uno potrebbe domandarsi perché sono i consumatori europei a pagare le conseguenze di questo errore di previsione. Non potrebbero aspettare anche gli americani e quindi portare il prodotto, almeno i primi prodotti, in Europa? Ma forse la verità è un'altra. Voci di corridoio fanno alcune ipotesi, tra queste che l'azienda stia prendendo un po' di tempo per risolvere i problemi al Wi-Fi di alcuni iPad. E il sospetto arriva da Israele. Le autorità israeliane al momento non hanno autorizzato l'entrata nello Stato del prodotto della Apple. E non si tratta solo di un divieto alla commercializzazione, è proprio un divieto totale. Cioè, se arrivate all'aeroporto di Tel Aviv con un iPad, le autorità ve lo sequestrano e ve lo ridanno quando volate fuori dal territorio israeliano. Rimane il fatto, per questo vanno fatti alcuni applausi alla Apple, rimane il fatto che la Apple è estremamente abile a guidare la comunicazione e a trasformare ogni episodio in una opportunità a proprio favore. Segnali di ripresa del settore IT arrivano dalle consegne, non le vendite, quindi, ma le spedizioni di personal computer, che sono cresciute nel primo trimestre del 2010 del 24% secondo IDC e del 27% secondo i dati di Gartner. Stiamo parlando di circa 80 milioni di pezzi nei primi 3 mesi dell'anno. Segnali positivi arrivano dal mercato pubblicitario online, li indicano i conti trimestrali di Google, che ha anche assunto 800 persone negli ultimi mesi. Gli utili sono cresciuti del 37%, la pubblicità aumenta anche se la borsa si aspettava di più e ha venduto titoli a New York, facendo scendere le quotazioni dopo l'annuncio del 3%. Parliamo di Palm, che è in vendita e potrebbe essere acquistata da HTC, Lenovo o dai cinesi di Huawei o ZTE, ma secondo alcune voci anche RIM, ovvero Research in Motion, l'azienda che produce il BlackBerry, potrebbe essere interessata alla Palm. Palm è un grande nome, un nome storico nel settore dei palmari e della telefonia, degli smartphone, della telefonia mobile, anche se negli ultimi periodi le vendite, i conti della Palm non sono certo soddisfacenti. By the mid-2030s. I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. Quella che sentite è la voce di Barack Obama. Il presidente americano ha annunciato questa settimana i progetti per l'esplorazione dello spazio. Lo ha fatto con un discorso interrotto più volte dagli applausi al Kennedy Space Center di Cape Canaveral. E di questo parleremo più tardi a 2024. Ora, a proposito di notizie della settimana, ce n'è una buona per il giornalismo di inchiesta e anche per internet, perché per la prima volta un giornalista di un sito web ha vinto il mitico premio Pulitzer. Si tratta di una giornalista, Sherry Fink, di ProPublica.org, un'organizzazione no profit finanziata da alcune fondazioni e dai lettori del sito, che dà lavoro a 32 giornalisti dedicati esclusivamente a inchieste giornalistiche di interesse pubblico. ProPublica lavora proprio per questo, per la promozione del giornalismo investigativo che abbia un valore pubblico, perché sappiamo che un buon giornalismo fa bene sia alla democrazia ma anche al sistema economico, quindi in definitiva poi ad un paese nel suo intero sistema. Questa settimana in Germania è iniziata un'asta per l'assegnazione di nuove frequenze destinate alla telefonia mobile per soddisfare la crescente richiesta di connessioni dati. Internet, lo sappiamo, lo diciamo più volte, 2024 è uno strumento sempre più usato sugli smartphone, gli utenti chiedono sempre più banda e tariffe sempre più basse e quindi gli operatori hanno bisogno di frequenze per fornire questi nuovi servizi. L'etere, lo sappiamo, è una risorsa scarsa in tutto il mondo, non esiste tanto spazio per attivare nuovi servizi, ma in questi anni c'è un'opportunità che si chiama dividendo digitale, grazie al passaggio alla TV digitale terrestre. Per spiegarlo è con noi oggi Marco Mele, che si occupa del settore televisivo al Sole 24 Ore. Marco, benvenuto 2024. Buongiorno a voi. Quando parliamo di dividendo digitale, che cosa intendiamo? Dunque, nel passaggio dalla TV analogica, quella che abbiamo visto finora, a quella digitale, c'è una razionalizzazione nell'uso delle frequenze. Diciamo, detto in termini banali, avanzano delle frequenze, possono avanzare delle frequenze. Queste frequenze possono essere utilizzate per servizi diversi da quello televisivo. In particolare, nella conferenza mondiale sulle radiocomunicazioni del 2007 a Ginevra, è stato deciso che dal 2015 una parte delle frequenze utilizzate dalla televisione, tecnicamente da 790 a 862 MHz, ma questo insomma è un particolare tecnico, può essere utilizzato a scelta sia per la TV sia per i servizi di banda larga in mobilità, di cui c'è grande richiesta, perché l'obiettivo della Commissione europea e dei vari governi europei è di arrivare con la banda larga a tutti i cittadini europei. Ora, nelle città in genere, sia attraverso il cavo o attraverso la rete telefonica o attraverso il cavo della televisione, si arriva. Ma moltissimi europei, anche molti italiani, vivono in case isolate o in piccoli paesi. Allora ci si deve arrivare via etere e l'obiettivo appunto è utilizzare il dividendo digitale per raggiungere tutti i cittadini europei con la banda larga entro il 2015. Quindi alcuni paesi europei, abbiamo citato il caso della Germania dove quest'asta è appena iniziata, ma altri paesi seguiranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni, hanno deciso di mettere a disposizione parte di queste frequenze che si liberano per servizi molto richiesti come quelli di internet in mobilità, diciamo così. Se volete scriverci alla nostra redazione, il nostro indirizzo è molto semplice, 2024 scritto in cifra, quindi 2024 radio24.it. Stiamo parlando del dividendo digitale, cioè quella parte di frequenze che si liberano nel passaggio tra la TV analogica al digitale terrestre. E visto che anche in Italia questo processo si completerà entro il prossimo anno, entro il 2012, ma già il prossimo anno insomma sicuramente avremo coperto buona parte del territorio, perché quest'anno è il turno di altre importanti regioni del nord e quindi dopo il Piemonte arriverà la Lombardia e l'Emilia Romagna e anche altre regioni seguiranno secondo un calendario che vi aggiorneremo nel corso dei prossimi mesi. Dicevo, completato questo passaggio, si potrebbero liberare delle frequenze e quindi si può decidere se ridare altri canali e quindi aggiungere altri canali alla TV digitale terrestre, oppure decidere che è più importante internet della TV. Che cosa si sta facendo in Italia? Per parlare di questo è con noi oggi il collega Marco Mela. Allora Marco, qual è la situazione italiana? In Italia, al contrario di paesi come Germania o come la Svizzera, quindi fra l'altro la Svizzera, attenzione perché la Svizzera è un nostro confinante e potrebbe avere problemi, perché la Svizzera tutta questa banda che nominavo prima, 790, 862, la metterà a disposizione a banda larga mobile. In Italia non ci sarà alcun dividendo digitale. Spiego. In realtà, sentendo quello che le dichiarazioni ufficiali di operatori e ministri, in Italia ci sarebbe un dividendo digitale. Ma cos'è questo dividendo italiano? Nelle regioni in cui si passa analogico al digitale, i 5 frequenze vengono, diciamo, messe da parte. Alla fine 5 frequenze nazionali saranno assegnate intanto alle televisioni e non alla banda larga mobile. Secondo, non saranno assegnate con una gara, quindi con un introito per lo Stato e quindi per la comunità, ma saranno assegnate con quello che si chiama beauty contest, cioè una gara in cui prevarrà soprattutto l'offerta di contenuti e di servizi di questi operatori. Non solo, di queste 5 frequenze, a 2 di queste 5 potranno gareggiare tutti gli operatori esistenti, quindi è molto probabile che Rai e Mediaset si assicureranno un'altra rete a testa, oltre a quelle che già hanno. Quindi alle 4 che già gli sono state assegnate gratuitamente nei fatti, ne aggiungeranno una quinta e poi c'è una sesta che è quella della TV mobile. Una situazione assolutamente non comparabile con alcun paese europeo. Ma la cosa importante è che non c'è il dividendo digitale, e cioè che per adesso, a meno che alcuni governi futuri non cambino opinione, ma sono fenomeni che in Svizzera è nel novembre 2008 che si è deciso di destinare questa banda, perché poi bisogna preparare il terreno, cioè bisogna fare un bando di gara, bisogna fare consultazione con la Commissione Europea, in Germania c'è stata una lunga trattativa, perché poi bisogna evitare che la banda larga finisca nelle mani dei grandi operatori incumbent della telefonia, cioè che finisca tutto nelle mani di Telecom Italia Mobile e Vodafone, per esempio, ma riescano a entrare anche nuovi operatori. Insomma, si fa questa trattativa, ci vuole tempo, insomma, per preparare il terreno all'asta competitiva, perché ci sono sempre dei rischi da evitare quando ci sono aste competitive. E però in Italia non c'è alcuna decisione di questo tipo. La delibera dell'Agicom sul riassetto del digitale, diciamo, quindi sull'assegnazione di queste frequenze, non ne parla assolutamente. Non c'è nessun provvedimento di legge che ne parla. E quindi per ora in Italia non c'è nessun dividendo per la banda larga mobile. È vero invece che il governo Prodi a suo tempo assegnò e fece una gara competitiva, questa per il WiMAX, su frequenze però molto più elevate di quelle televisive. Solo in poche regioni, in poche zone d'Italia sono state, chi ha vinto già ha cominciato a diffondere i servizi, però va detto che le frequenze televisive sono i più adatti per queste reti, perché sono frequenze, questi si chiamano tecnicamente, abbastanza basse, dove è meno costoso fare la rete di trasmissione e quindi si possono tenere bassi anche i costi del collegamento, dell'accesso alla banda per i cittadini e per gli utenti, che è un obiettivo fondamentale per gli stati. Quindi niente, si conferma ancora una volta che l'Italia nel sistema televisivo è assolutamente un'anomalia in Europa. Quella del dividendo è solo una delle cose. Un'altra cosa, in Germania si realizzeranno almeno 4 miliardi di euro, dai 4 agli 8 miliardi di euro. Poi bisogna vedere, perché c'è stata la crisi, eccetera. Però queste sarebbero risorse in Italia importantissime da utilizzare a loro volta per portare la banda larga, a questo punto non solo quella mobile da assegnare, ma anche la banda larga via cavo, eccetera. In un italiano su 8 oggi non ha accesso alla banda larga. E poi gli altri 7 su 8, molti non sono neanche collegati, ma hanno un accesso potenziale. Però molto, molto chiaro, e potremmo dire, concludendo, che ci siamo persi alcune occasioni tutte insieme. Marco, io ti ringrazio per essere stato con noi, anche per la chiarezza. A presto. Buongiorno a voi. Eh sì, ci siamo persi sicuramente una occasione per diffondere la possibilità di collegarsi ad internet, e anche sicuramente qualche miliardo di euro che male non facevano in questo periodo, soprattutto, come diceva Marco Mele, per contribuire alla diffusione ulteriore di banda larga e di internet, cosa ben più importante che il semplice canale televisivo. Ma visto che il digitale terrestre si sta diffondendo, sapete che con la diffusione di questa tecnologia i decoder di nuova generazione, e a maggior ragione le TV di nuova generazione con decoder integrato, sono in grado di non solo di sintonizzare automaticamente i canali, ma anche di metterli in fila secondo uno schema nato da un accordo tra gli operatori televisivi nazionali. Un'intesa che aveva già sollevato alcune proteste, alcune critiche, come quella dei giornalisti di Rai News 24, il canale di informazione della Rai, che sarà posizionato al canale numero 42. La decisione è stata criticata perché più alto è il numero del canale, più difficile che l'utente si sintonizzi, perché un accendere la TV magari va dall'1 al 10 velocemente, poi gli altri si vedrà. Ieri l'autorità delle comunicazioni ha presentato uno schema di numerazione automatica che sarà sottoposto a consultazione pubblica di 15 giorni. Questo in sintesi sarà l'ordine. I canali dall'1 al 9 sono assegnati ai canali generalisti, quelli insomma, che tutti hanno ai primi posti nella TV, Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, La 7, MTV, eccetera, eccetera. Dal 10 al 19 andranno alle TV locali radicate sul territorio, da 20 a 70 i canali nazionali suddivisi per generi, notizie, e qui sta appunto al 42 Rai News 24, sport, musica, eccetera, eccetera, poi da 71 a 100 le altre emittenti locali, da 100 a 200 si ripete questo schema e poi i canali a pagamento partiranno dal canale 300. Ricordiamo, ed è cosa molto importante, che in tutti i casi è possibile rimettere in ordine i canali manualmente secondo le proprie preferenze, quindi se uno ad esempio vuole vedere le ultime notizie può spostare dal 42 al numero 10, 11, 12, insomma dove lo trova più comodo, Rai News 24 ad esempio, però certo molti non faranno questa risintonizzazione manuale. In questo caso sono stati gli operatori e poi l'authority di fatto ha messo nero su bianco queste decisioni nel caso ad esempio delle varie piattaforme alternative. Sky prima di tutte, la decisione di come viene fatto questo elenco, questo ordine è fatta da Sky in un caso, oppure Telecom Italia, Fastweb, eccetera eccetera, e in alcuni casi bisogna pagare per essere nei primi canali, certo parliamo delle emittenti. Bene, lasciamo da parte questo argomento sul quale magari torneremo nelle prossime settimane. Ricorderete che alcune settimane fa abbiamo parlato del caso di alcuni manager di Google condannati per violazione della privacy dal Tribunale di Milano. In questa settimana sono state depositate le motivazioni e vi avevamo promesso di commentare questa sentenza dopo aver letto le motivazioni. Questa è una sentenza che ha provocato molte polemiche, ma oggi ci vogliamo anche domandare se sono giustificate queste polemiche oppure no. Saluto Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore che si è occupato di questa vicenda anche questa settimana. Benvenuto Alessandro, grazie per essere con noi. Buongiorno e grazie a voi. Dunque ricordiamo che nel settembre del 2006, ricordiamo brevemente il fatto che ha scatenato poi tutto ciò che commentiamo anche oggi, un gruppo di ragazzi, siamo a Torino, carica su Google Video, che poi è diventato nel corso del tempo YouTube perché Google ha comprato YouTube, comunque all'epoca parlavamo di Google Video, caricato una serie di immagini nelle quali si vedeva un disabile minorenne, un ragazzino malmenato da questi ragazzi. Un navigatore della rete si è accorto di questo video, ha segnalato la cosa ad un'associazione, l'associazione Vivi Down, anche perché l'associazione veniva citata in questo video, e da qui si è andati in tribunale. Questa in sintesi la vicenda. Sì, la vicenda è questa, i fatti sono questi, e poi la procura sulla base di quella segnalazione e poi delle denunce querele sia dei genitori del minorenne e sia anche dell'associazione Vivi Down ha ipotizzato alcuni reati che sono la diffamazione mezzo stampa, la diffamazione aggravata e la violazione di una serie di normative sulla privacy, sia a carico di chi ha commesso il fatto, cioè i minorenni, ma anche a carico del mezzo, dei responsabili del mezzo attraverso cui questo è avvenuto, cioè di Google. La diffamazione è stata, diciamo, il caso di diffamazione è stato risolto, quindi non sono stati condannati i manager per questo capo di imputazione, ma invece sono stati condannati per violazione della privacy. Naturalmente l'azienda americana, ma anche la stampa americana, si è scagliata contro questa sentenza dicendo è una vergogna, è un attacco alla rete così come la conosciamo oggi. Allora, avendo letto le motivazioni, sostanzialmente il giudice che cosa dice, perché Google, o meglio i manager di Google, hanno violato la legge italiana sulla privacy? Guarda, credo che nella lettura, nella divulgazione poi di questo fatto e del tutto il procedimento giudiziario si sia creato non so quanto volutamente un gigantesco equivoco. si è voluto trasformare questo processo come una grande partita del legislatore italiano, della magistratura italiana, sulla libertà o meno della rete, delle nuove tecnologie. La verità è che questo non c'entra assolutamente nulla con l'oggetto del processo. Non è mai stata in discussione la libertà dei navigatori, anzi lo stesso giudice nelle motivazioni tesse con parole auliche anche l'elogio della libertà della rete, delle nuove prospettive che la rete fornisce per i cittadini e per tutti i servizi. Il problema qua è assolutamente di un'altra natura. Perché diciamo nel corso delle indagini si è scoperto che Google avrebbe dovuto pubblicare prima di ogni caricamento di un video un testo in cui si diceva: guarda che tu ti assumi tutti gli oneri e quindi ti assumi un avviso, una finestra, un disclaimer come nel linguaggio anglosassone. Ma proprio su questo si crea l'equivoco, perché l'interpretazione che dà Google in tutte le manifestazioni, in tutte le dichiarazioni che ha rilasciato in questo periodo e anche in sede processuale è la seguente: Google non è in grado di controllare i caricamenti e di fare una censura, un controllo preventivo di tutti i caricamenti che oggi ammontano a 25 ore al minuto per minuto. All'epoca di fatti erano circa 8, poi sono diventate 13 ore per minuto. Cioè ogni minuto che passa vengono caricati su internet 25 ore di filmati. Incredibile, in tutto il mondo naturalmente. Il mondo. E ovviamente questo, da un punto di vista tecnologico e anche umano, rende impossibile il controllo sul caricamento preventivo. Ma non è questo che la magistratura, che il giudice, la procura prima e il giudice poi contesta a Google. Il problema era esattamente la natura di cui parlavi tu poco fa. E Google avrebbe assolto ai suoi obblighi di non veicolare messaggi diffamatori se solo nel 2006, all'epoca dei fatti, avesse predisposto per ogni utente, nel momento in cui si apprestava a caricare, a uploadare un file, un avviso della privacy molto chiaro, molto semplice e sintetico, in cui avrebbe dovuto dire: caro utente, tu stai caricando dei filmati, sappi che se tratti dei dati sensibili devi essere un titolare. Sì. Se i dati sensibili sono di terze persone, in questo caso c'era un malato, oltretutto minorenne, tu sappi che devi avere i diritti, la disponibilità di questi diritti. In quel modo Google avrebbe assolto ai suoi obblighi e non avrebbe concorso nel reato di diffamazione, che per una serie di cose tecniche non è poi stato proceduto, in particolare la remissione di querela dei genitori del ragazzino, ma non avrebbe avuto nemmeno problemi sul concorso nella responsabilità della diffamazione. Chiarissimo. Seguiteci ogni settimana, andiamo in onda il sabato nel pomeriggio di Radio 24 tra le 16 e le 17, ma ci trovate soprattutto sempre quando volete su internet, sul nostro sito internet www.radio24.it. E come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Ci sono software che garantiscono un aggiornamento del podcast settimana dopo settimana anche in maniera automatica. Ci sono molte informazioni online sul nostro sito internet, oppure se non trovate la strada giusta, insomma, se avete qualche dubbio, scriveteci una email: 2024@radio24.it. A proposito del podcast, vorrei ringraziare i nostri tecnici, perché da qualche settimana il file MP3 della nostra trasmissione è disponibile poco dopo il termine della nostra puntata, quindi al massimo entro le 18:30 del sabato. Stiamo parlando del caso Google, sono state depositate le motivazioni, allora uno può leggere queste pagine nelle quali il giudice spiega perché ha condannato i manager di Google per violazione della privacy. Abbiamo sentito, è con noi oggi Alessandro Galimberti, abbiamo sentito che Google avrebbe semplicemente dovuto mettere una finestrella con una serie di indicazioni relative alla normativa sulla privacy, al termine un bel bottone accetto oppure ok e tutto si sarebbe risolto. Quello che sostengono invece i manager di Google dalla California, e cioè che questa sentenza è un attacco alla libertà della rete, non sussiste, tant'è che lo stesso giudice dice e conferma che in effetti un'azienda come Google, che oggi tra l'altro è proprietaria di YouTube, non può controllare tutto e quindi può continuare tranquillamente a far sì che gli utenti pubblichino autonomamente tutti i video che vengono pubblicati su YouTube. Guarda, per chiarezza il giudice scrive anche un capitolo, dedica un capitolo alla sentenza che è lunghissima, sono 111 pagine, che è intitolato Ad impossibilia nemo tenetur. Non si può chiedere a nessuno, non si possono chiedere cose impossibili. Certo. E riguardo le cose impossibili sono proprio il controllo preventivo sui caricamenti. Per la verità c'è un ulteriore livello di lettura della sentenza che è proprio il cuore del problema. Accertato che quello è successo e che quello è successo perché mancavano delle garanzie legali, anche garanzie, voglio dire, pragmatiche di procedure interne al sito, la procura di Milano e il giudice si chiedono anche perché è successo, è stato un fatto accidentale, è stata una trascuratezza. La risposta non si può dare, ma ci sono all'interno dei documenti sequestrati alla procura della corposissima istruttoria degli elementi per ritenere, ed è questo che ipotizzano i giudici, che ciò sia avvenuto deliberatamente, che questa prateria senza regole di cui parla il giudice Oscar Maggi sia stata predisposta con una finalità. Qual era questa finalità? La finalità era, tratta da documenti interni peraltro sequestrati a Google e da dichiarazioni di alcuni testimoni richiamati su questi fatti dopo prime dichiarazioni che non corrispondevano ai documenti sequestrati, la verità era che Google Video in quel periodo ambiva a diventare il leader nel mercato italiano. Il mercato italiano che era stato oggetto di un'analisi interna, di un lavoro interno, in cui studiava la particolare immaturità del mercato italiano, la particolare possibilità di crescita del mercato italiano, a condizione che l'utente non percepisse alcun limite nell'inserimento dei file. Quindi nessun vincolo, anche un semplicissimo pop-up sul quale magari cliccare ok, accetto una cosa del genere, non doveva nemmeno quello essere un impedimento perché sapevano, erano convinti che questo avrebbe ostacolato la crescita di Google. Per la verità c'è anche un terzo livello di lettura che la sentenza affronta, anche perché è un capo di imputazione, la finalità di lucro. Ora, detto così, sembra quasi che Google volesse speculare sul video cialtroni come questo. Sì, sì. Il problema è molto più generale. Il problema è che alla crescita dei video, se accompagniamo una politica di sviluppo commerciale, di monetizzazione dei video. A diventare il leader nella produzione di video di self prodotti amatorialmente serviva a creare un mercato per la pubblicità basato sulla tecnologia AdWords che Google aveva già varato una decina di anni prima, e di questo ci sono riscontri proprio documentali nelle mail interne dell'azienda, nei lavori, in alcuni studi interni e poi nelle dichiarazioni di alcuni testimoni. Molto chiaro. Alessandro, io ti ringrazio per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Chiudiamo questo capitolo, tra poco parliamo di spazio. Adesso c'è una notizia che si collega ad una cosa che abbiamo detto la scorsa settimana quando abbiamo parlato della neutralità della rete, cioè quel principio secondo il quale gli operatori che ci forniscono un collegamento ad internet non dovrebbero intervenire sul traffico, cioè dovrebbero trattare tutto il traffico allo stesso modo, senza filtrare o rallentare uno o più servizi. A volte però gli operatori, anche per una gestione efficiente della rete, perché ci sono dei pazzi che scaricano musica dalla mattina alla sera, qualche cosa fanno e qualche intervento lo fanno, però non bisogna esagerare. Ma pochi giorni fa il commissario all'agenda digitale europea, Neelie Kroes, ha detto che non è giusto che vi siano corsie preferenziali sul web che consentono ad alcuni servizi e contenuti di funzionare meglio. Serve invece potenziare la rete per fornire ai cittadini un servizio sempre migliore. Queste sono poche parole, ma sicuramente questo è un tema molto importante. Un conto è rallentare il traffico di questi pazzi, appunto, che scaricano dalla mattina alla sera, un conto è andare un po' al di là e quindi toccando anche alcuni servizi che invece magari sono innocui per la gestione della rete e invece sono un problema per l'operatore ma non per il cliente. Adesso, come dicevo, parliamo di spazio perché questa settimana c'è stato un annuncio importante del presidente americano Obama al Kennedy Space Center, che ha detto alcune cose, ha dato alcune indicazioni chiare sul futuro delle missioni spaziali americane. So let me start by being extremely clear. I am 100% committed to the mission of NASA and its future. Because Barack Obama è stato più volte interrotto dagli applausi, quindi pare che ai tecnici, agli ingegneri e ad alcuni astronauti della NASA il discorso sia piaciuto, ma che cosa ha detto e che cosa faranno gli Stati Uniti per la conquista, una nuova conquista dello spazio per i prossimi anni? Ne parliamo con Luigi Bignami, che è un collega, un giornalista, sicuramente è uno di quelli che in Italia conosce meglio il settore, il mondo dello spazio. Luigi, bentornato a 2024. Grazie. Dunque, perché questo è un discorso importante e perché era molto atteso? È importante ed era molto atteso perché finalmente sappiamo cosa andremo a vedere nello spazio quando usciremo dall'orbita della Terra. Si diceva la Luna dapprima e qualcuno già ipotizzava la possibilità di andare a guardare da vicino, addirittura scendere su degli asteroidi e poi su Marte. Ebbene, stando al discorso di Obama, ora sappiamo che la Luna la accantoneremo per chissà quanto tempo e gli obiettivi invece sono dapprima gli asteroidi, poi forse i satelliti di Marte e poi Marte stesso, dando anche delle date. Entro il 2035 dovremmo arrivare ad essere in orbita attorno a Marte e di lì a pochi anni, quindi diciamo 2040-2045, vedere l'uomo esplorare il pianeta rosso. And by 2025 we expect new spacecraft designed for long journeys to allow us to begin the first ever crewed missions beyond the moon into deep space. E in queste parole sta il concetto fondamentale dell'annuncio fatto da Barack Obama: beyond the moon and into deep space, oltre la Luna nello spazio profondo, il che vuol dire poi Marte, con le date che abbiamo sentito. Senti Luigi, possiamo dire che dopo questo annuncio le cose per la NASA sono cambiate, perché sappiamo che l'amministrazione Obama è stata criticata per i tagli al budget dell'ente spaziale americano. Ecco, che cosa cambia e cambia qualche cosa con questo annuncio? Cambia di molto, perché fino ad oggi tutta l'industria americana puntava sull'obiettivo Luna. C'era l'idea di dover costruire due nuovi razzi, Ares 1 e Ares 5, che sarebbero dovuti servire il primo per portare in orbita degli uomini attorno alla Terra o alla Stazione Spaziale Internazionale, il secondo per portare in orbita attorno alla Terra dei carichi molto pesanti e da qui portare poi l'uomo e i carichi fin sulla Luna. Tutto questo viene tagliato, tutto questo non esiste più, era stata l'idea di Bush di dover dare questo tipo di iniziativa alla NASA. Cos'è rimasto di tutto questo? Semplicemente la capsula che doveva servire agli uomini per andare sulla Luna, sulla stazione spaziale e su Marte. Anche questo nel discorso che era stato fatto all'inizio dell'anno era stato tagliato, ma era talmente avanti il progetto di questa capsula chiamata Orion che davvero sarebbe stato un peccato eliminarla del tutto. E allora la Lockheed, ma soprattutto gli astronauti che sono andati sulla Luna, un gruppo di astronauti che andarono sulla Luna negli anni 70, hanno consigliato Obama di andare avanti in questa iniziativa, e così Obama ha accettato il consiglio e almeno per quanto riguarda l'industria americana che sta costruendo la Orion andrà avanti a costruirla e diventerà una scialuppa di salvataggio da agganciare alla stazione spaziale. Sì, perché ci sono anche problemi legati al mondo del lavoro, perché soprattutto in Florida, ma un po' in tutti gli Stati Uniti, l'industria aerospaziale dà lavoro a molte persone, quindi molte famiglie contano su quei posti di lavoro. Parentesi, anche in Italia questo accade, non certo con le dimensioni dell'America, però abbiamo un'importante industria aerospaziale e forse troppo spesso ce ne dimentichiamo. Questo è sicuramente grave, anche perché ricordiamo abbiamo costruito buona parte della Stazione Spaziale Internazionale, tra i moduli abitativi circa la metà, insomma, quindi abbiamo contribuito molto. Quindi potremmo dire che questa capsula, che è già in fase di costruzione, verrà utilizzata, ma è una sorta, insomma, di ripiego, cioè verrà utilizzata solo come scialuppa di salvataggio. Dopodiché si partirà con nuovi progetti, ne parleremo tra poco. Prima vorrei farti questa domanda: tu hai citato la Lockheed, che è un'importante industria che fa un po' di tutto, non solo aerospazio ma anche armamenti, aeroplani eccetera eccetera. Hai citato il settore privato, che è molto importante e dalle parole di Obama lo sarà sempre di più. Certamente, Obama ha dato una grande spinta all'industria privata che sta svolgendo una serie di esperimenti per portare da prima carichi e poi uomini nello spazio. Non ultimo, il 9 di maggio dovrebbe partire il primo potente razzo, chiamato Falcon 9, di una società privata, la SpaceX, il cui obiettivo è proprio quello, entro pochissimi mesi, diciamo, di portare attraverso una capsula che assomiglia moltissimo alla Orion, portare del materiale alla stazione spaziale. Perché Obama spinge in questa direzione? Innanzitutto perché questo dà lavoro agli Stati Uniti, in secondo luogo perché qualcosa in casa che permetta di fare un collegamento tra la Terra e lo spazio deve rimanere, altrimenti da qui a fin quando saranno pronti i nuovi progetti, la NASA dovrà affidarsi a voli terzi, a voli con la Russia oppure con l'Europa, ma non avrà più una capsula per poter trasportare uomini e mezzi. Ecco perché quindi spinge molto in questa direzione. Senti, in effetti è così difficile realizzare nuovi razzi, nuove astronavi per andare su Marte? Abbiamo sentito le date, gli obiettivi d'arrivo sul pianeta rosso in orbita a metà degli anni 30, dopo qualche anno ci si atterrerà, un po' prima, attorno al 2025, si andrà su un asteroide. C'è chi dice, tu stesso mi hai confermato che sull'asteroide ci potremo andare domattina con la tecnologia oggi a disposizione. Allora perché aspettare così tanto tempo? Per diversi motivi. La tecnologia esiste. Se si volesse costruire un razzo domattina per poter partire verso un asteroide per poter scendere sull'asteroide con degli uomini e tornare a casa, lo potremmo fare. Però dovremmo utilizzare una tecnologia vecchia, la tecnologia degli anni 70 che portò l'uomo sulla Luna. Una tecnologia che oggi non è più permessa da quelli che sono i piani della NASA, dei piani di sicurezza della NASA. E allora ecco la necessità di dare vita a nuovi razzi, a una rivoluzione in campo astronautico. E poi c'è un altro elemento: finché si andava sulla Luna si poteva andare in 3 giorni, si poteva rimanere un giorno o due lassù e tornare a casa in 3 giorni. Se si inizia a parlare di asteroidi o addirittura di Marte, con la tecnologia attuale avremo bisogno di addirittura di anni per poter andare e tornare, e quindi la necessità di trovare qualcosa di completamente nuovo. Senti, a proposito di asteroidi, ci stiamo non con gli uomini, ma ci stiamo già andando, cioè qualcuno c'è già andato. Certamente. Qualche pezzo di ferro. Certamente, la NASA è scesa su un asteroide, su Eros, con una navicella, ha fotografato fino a pochi metri la sua superficie. I giapponesi sono scesi su un altro asteroide, Yakutake, e forse è riuscito a prendere un pezzettino di questo asteroide e sta tornando a casa una capsula e dovrebbe atterrare nel mese di luglio. Dico forse perché non è sicurissimo che la pinzetta che doveva prendere la polvere sia riuscita in questo intento, e dovrebbe tornare perché questa navicella ha avuto una serie di vicissitudini, sarebbe dovuta tornare in realtà nel 2009, poi sono riusciti a correggere tutti i parametri di volo e dovrebbe arrivare nel mese di luglio. Tuttavia la tecnologia per arrivarci c'è, nello spazio in questo momento c'è una navicella dell'Agenzia Spaziale Europea che scenderà nel 2015 su una cometa, quindi si vede come questa tecnologia esiste. Certo, la differenza nel mandare un uomo e nel mandare invece un pezzo di ferro, come dicevi tu, è enorme. Eh sì, certo, perché l'uomo dobbiamo essere certi che torni. Infatti tutte le volte, diciamo, forse in questo passaggio Obama ci ha fatto ricordare il famoso discorso dell'inizio degli anni 60, quando Kennedy lanciò la sfida alla Luna, e tutte le volte che si dice andremo sulla Luna o in questo caso andremo su Marte, si specifica sempre e torneremo in modo sicuro, torneremo sulla Terra, perché un conto è arrivare, un altro ed essere sicuri di ritornare. By the mid 2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. Ricordiamo che, a scanso di equivoci, le tecnologie spaziali, gli investimenti fatti per creare cose che vanno nello spazio hanno delle ricadute immense poi sulla Terra, in tecnologia anche di uso quotidiano. Però vorrei farti un paio di domande. La prima è: perché dovremmo andare su un asteroide? Cosa c'è di tanto interessante su, insomma, una cosa abbastanza piccola che ruota e vaga nello spazio. La seconda è perché andare su Marte, visto che abbiamo già mandato qualche rover che gira in lungo e in largo, abbiamo fotografie, eccetera, eccetera. Partiamo dall'asteroide. Andare su un asteroide significa mettere a punto tutta la tecnologia che poi ci serve per andare su Marte. Prima dicevamo mettiamo a punto le tecnologie andando sulla Luna. Perché si è spostato l'obiettivo all'asteroide? Perché basta metà della tecnologia che serve per andare sulla Luna, in quanto andare su un asteroide non serve il modulo per scendere sull'asteroide. La gravità è così debole che una navicella può arrivare a poche decine di metri dall'asteroide, mettersi in orbita e un astronauta può uscire dalla navicella e con un cordone ombelicale e con delle pistole a razzo può scendere letteralmente sull'asteroide. Quindi si può mettere a punto la tecnologia di un lungo viaggio senza la necessità di dover avere un modulo per poter scendere. Quindi serve solo per allenamento? Serve per allenamento da un punto di vista tecnologico. Da un punto di vista scientifico, ovviamente gli asteroidi noi sappiamo che hanno un'importanza grandissima, sono i mattoni che hanno costruito il sistema solare, quindi andare su di essi, portare a casa dei pezzi, studiarli, ci apre un orizzonte nuovo. Gli asteroidi possono essere le miniere del futuro. È stato calcolato quanti migliaia di miliardi di dollari può valere un asteroide per quel che contiene, ma qui parliamo davvero di secoli prossimi. Futuro, esatto. E poi gli asteroidi sappiamo che sono un pericolo per la Terra, quindi sapere esattamente come sono composti ci permette anche di poter intervenire eventualmente per deviarli o per distruggerli, eccetera. Quindi questo è il motivo per cui andare sugli asteroidi. Su Marte? Su Marte è l'obiettivo finale dell'uomo per quanto concerne le nostre capacità tecnologiche. Difficilmente noi possiamo pensare di poter andare oltre, perché andare su Giove è impossibile, sono pianeti gassosi. Andare oltre il sistema solare, dove andiamo? Verso la stella più vicina ci vogliono centinaia di migliaia di anni. Diciamo che oggi ci serve una rivoluzione tecnologica per arrivare a questo obiettivo ultimo dell'uomo, di questo secolo, forse dei prossimi 2 o 3 secoli, che è appunto Marte. Ma Marte è diciamo un mondo geologico estremamente interessante. Lì forse addirittura c'è la vita. Sappiamo che in alcuni campioni sono stati trovati dei fossili, molto probabilmente dei fossili. C'è chi addirittura ha visto in certi campioni fotografati dei rover la possibilità che ci siano dei fossili, ma molto chiari. Insomma, Marte è qualcosa davvero che per l'uomo può essere l'obiettivo scientifico di questo secolo, ma anche del prossimo secolo. Senti Luigi, in molti passaggi del discorso di Obama, Obama ha fatto riferimento alla parola o comunque al concetto del cambiamento. Certo, questa è una parola, questo è un verbo che lui ha utilizzato molto, è stato forse il mattone sul quale lui ha costruito anche la campagna elettorale, ma ad esempio sentiamo in questo momento... Our space program are different, and our imperatives for this program are different than in decades past. La sfida che abbiamo davanti è diversa rispetto a quello dello scorso decennio, facendo riferimento al programma Constellation cancellato, quello dell'amministrazione Bush. Not just to continue on the same path, we want to leap into the future. E poi anche in questo passaggio sentiamo: non dobbiamo continuare sulla vecchia strada, vogliamo catapultarci nel futuro. We want major breakthroughs. A transformative agenda for NASA. Dobbiamo rompere le barriere, vogliamo un'agenda di trasformazioni per la NASA. Sentite queste parole, quali considerazioni possiamo fare? Cioè la NASA deve costruire cose nuove, motori, navicelle, tecnologie nuove, ma che cosa in particolare? Bisogna costruire motori molto più potenti. Oggi noi abbiamo dei motori potenti, ma non sono quelli sufficienti per poter dare ai mezzi e agli uomini quella spinta che ci permette di arrivare a Marte e di tornare non in anni, ma al massimo in qualche mese. Ed allora ecco, per esempio, i nuovi motori che la NASA sta sperimentando. Si ipotizzano motori a cherosene e ossigeno. Oggi sono motori, quelli dello shuttle, a idrogeno. ossigeno. Si stanno studiando motori a metano e idrogeno, quindi motori nuovi, di concezione nuova. Ma questa è solo una parte. Poi ci sono e verranno studiati sulla stazione spaziale, per esempio, dei moduli gonfiabili che potrebbero dare una certa autonomia all'uomo senza dover portarsi tutto dalla Terra. Sono cose che sono state già dette, ipotizzate, ma ancora non c'è nulla di concreto. Ci sono poi dei nuovi studi su il docking nello spazio, cioè nel far sì che le navicelle possano agganciarsi tra di loro in modo del tutto intelligente. Se noi dobbiamo fare dei docking, cioè degli agganci di navicelle a distanze come da qui a Marte, non possiamo pensare che dalla Terra venga inviato un messaggio, perché ci impiega 7-8 minuti per arrivare là, e quindi ci vuole una tecnologia davvero sofisticata, intelligente, che possa permettere tutto questo in modo autonomo. Sì, sì, anche perché l'aggancio tra le cose spaziali non è come attaccare un rimorchio ad un tir, è piuttosto complicato, e io ho ascoltato delle discussioni proprio sul docking, che è una roba che è sempre complicatissima, quindi questo è un punto sicuramente importante. Luigi, a proposito di aggancio, quasi tutti i mesi c'è qualche cosa che s'aggancia alla Stazione Spaziale Internazionale. Se uno guarda i piani di il programma di lancio di oggetti, quindi o lo Space Shuttle o la Soyuz, oppure tutti i moduli automatici che portano materiali alla Stazione Spaziale Internazionale, insomma c'è un traffico incredibile. A proposito della Stazione Spaziale, la data di scadenza, che ancora oggi è scritta, mi sembra che sia 2015-2016, una roba del genere. Però anche su questo Obama ha detto qualche cosa. Certo, ha detto la Stazione Spaziale la porteremo avanti almeno fino al 2020. And we will extend the life of the International Space Station. Con tutte le problematiche che ci sono, perché i moduli non erano stati costruiti per sopravvivere per più di 10 anni, e i primi vennero portati nello spazio nel 1989. Quindi bisognerà vedere se i moduli saranno sicuri anche dopo il 2015 e il 2016. Certamente, stando alle prime indicazioni, potranno resistere anche fin dopo il 2020. E quindi oggi abbiamo la stazione spaziale che è completa. Ormai mancherebbe solo un modulo russo che verrà portato prossimamente con uno dei prossimi lanci dello shuttle, ma da qui in poi davvero abbiamo una stazione nello spazio che dovrà essere sfruttata al meglio. Per fortuna, almeno questo, avremo la possibilità di vederla lassù per un altro decennio. Dopodiché viene fatta distruggere nell'atmosfera? Esatto, dovrebbe succedere quello che successe per la Mir, cioè verranno scomposti tutti i moduli uno con l'altro e verranno date a loro una certa in grado di inclinazione, in modo tale che cadendo nell'atmosfera ovviamente bruceranno. Senti, concludendo sul prossimo futuro, ma parliamo di settimane e mesi, questo è l'anno in cui lo Space Shuttle va in pensione, perché anche per questa navicella è arrivata la data di pensionamento. Che cosa succederà nell'immediato, visto che mi sembra di capire che se non arriva qualche soluzione dai privati, la NASA per molti anni non avrà razzi per andare nello spazio? Sì, certo, la NASA ha già fissato una serie di appuntamenti con la Soyuz, ha affittato dei posti fino al 2014, già però fino al 2015 diciamo, e ha già messo una caparra per ciascuno di questi voli. Ciò che è un po', diciamo, divertente è che la Russia si è permessa di alzare il prezzo di un biglietto. Certo. Prima costava sui 25-30 milioni di dollari, adesso l'ha alzato a 55 milioni di dollari. La NASA si è un po' così arrabbiata, diciamo, ma come è possibile? Un turista qualunque paga 35 milioni di dollari e noi invece dobbiamo pagare così tanto. E la Russia ha detto: questi sono i tempi, se avete bisogno. Questo è il listino. Se esatto. Senti, quindi per i prossimi anni ci si affida solo alla Soyuz, a meno che arrivi qualche cosa di interessante dal settore privato. Un'ultima domanda riguarda la nostra Europa. Ho sentito dire che c'è così una ipotesi, che non so quanto concreta sia, di costruire un mezzo che è capace di trasportare gli uomini utilizzando l'Ariane, quindi tutta tecnologia europea. Magari riusciamo a fare anche un prezzo più buono agli americani. C'è qualche cosa di concreto oppure no? Sì, certo. L'Agenzia Spaziale Europea sta studiando la propria capsula per portare gli uomini nello spazio. È una capsula molto simile a quella americana, cioè alla Orion, o se vogliamo, per chi è vissuto un po' di più, alla famosa capsula Apollo che portò gli uomini in orbita attorno alla Terra e poi verso la Luna, e sta già concretizzando alcune parti. Per esempio sta studiando lo scudo termico, che è veramente la parte più importante, perché il rientro nell'atmosfera è qualcosa di estremamente complesso, anche se noi oggi sentiamo gli shuttle che vanno e vengono. In realtà questo passaggio, questo momento è estremamente complesso, per cui si sta molto puntando in questo momento sullo studio dello scudo termico, però la capsula è nei computer degli ingegneri. La data di uscita di questa capsula non è ancora scritta, però ecco, c'è comunque un lavoro di questo tipo. Bene, grazie a Luigi Bignami per essere stato con noi. Insomma, quest'anno ci sarà sicuramente qualche altra occasione, diciamo, per riparlare di spazio, visto che insomma, siamo pronti per vedere gli ultimi lanci dello Space Shuttle. Buon lavoro, a presto, grazie. Grazie a tutti. E così concludiamo questa puntata di 2024. Quella che avete ascoltato è la nostra versione podcast, nella quale abbiamo lasciato in versione integrale la chiacchierata, molto interessante dal mio punto di vista, con Luigi Bignami sul futuro dello spazio americano, ma visto che noi siamo partner degli Stati Uniti all'interno della Stazione Spaziale Internazionale, le cose che succedono al di là dell'oceano riguardano anche la nostra industria aerospaziale. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di passare parole per fare scaricare il podcast della nostra trasmissione anche a vostri amici, a vostri colleghi. Il nostro indirizzo di posta elettronica, se volete comunicare con noi, è 2024@radio24.it. Noi ci risentiamo la prossima settimana in diretta, in onda su Radio 24 tra le 16 e le 17 del sabato, oppure se volete lo desiderate attraverso il servizio podcast della nostra radio. Buon lavoro, buon divertimento e buon ascolto con i nostri programmi. You are disconnected.